pezzo di ferro e mascali. Michele Vietti è stato eletto a vicepresidente del CSM, proprio lui l'uomo che confezionò la depenalizzazione del falso in bilancio, l'uomo per cui è necessario proteggere il premier dalla giustizia perché non deve avere l'alibi dei processi, scappare dalla crisi con la scusa di scappare dai giudici. Adesso anche i PM sono nel mirino e, citano una frase di Vietti, hanno troppo potere. E direi che allora è il momento, a questo punto, di rivelarvi questo scoop, piccolo scoop, definivo sulla stampa. C'è il ritorno di Veronica Lario, quasi ex moglie del Presidente del Consiglio. Dice, ieri c'è stata un'intervista sulla stampa, no? A Ghedini, l'avvocato di Berlusconi, nonché deputato PDL, con Silvio, dice, coppia ideale. Allora andiamo a vedere brevemente cosa dice Veronica Lario. Silvio Nicolò, coppia da sballo, questo è il titolo, risposta all'intervista di Ghedini, stanca di sentire sciocchezze sul mio privato. Vediamo brevemente, nel lungo colloquio dell'avvocato Claudio Sabelli Fioretti, disseminato di complimenti per il Cavaliere, non è mancata una parte dedicata alla separazione del capo del governo dalla moglie. Veronica, ha detto Ghedini, è una persona piacevole, ho fatto di tutto per riappacificarli e ancora. Il presidente fa una vita disperata, c'era una difficoltà di ritmi di vita, Veronica non ha mai voluto andare a Roma, ne farà un po' di rappresentanza con lui. Due vite distanti. Leggendo quelle parole mi sono detta, dice l'ex, quasi ex signora Berlusconi, guarda che voglia proporsi Ghedini come nuovo compagno del Presidente del Consiglio. D'altra parte loro si capiscono, hanno un legame profondo, fatto degli stessi scopi. Chi meglio di loro potrebbe incarnare una complice e felice coppia da sballo? Questo il ritorno di Veronica Lario e di questo commento sulla possibile coppia che potrebbero formare l'avvocato Ghedini e il Presidente del Consiglio Berlusconi. Questo Irene Zerbini. Che proposta indecente. Pensavo stessi arrivando a una coppia Veronica Lario Fini, due che fanno piangere Berlusconi, invece poi ci hai sorpreso. Grazie ancora Roberta Giordano. Grazie a te, grazie a voi. A domani. Così interessante lettura sui giornali che tornerà come al solito ogni mattina su Radio 24. Tra poco ci ritroveremo anche per il sondaggio bianco o nero, canone Rai, questa è la domanda. Secondo voi con programmi diversi lo si pagherebbe più volentieri, visto che è la tassa più evasa d'Italia? Votate al sito www.radio24.it. 17 minuti dopo le 8 e ritorniamo insieme. Ancora buongiorno da Irene Zerbini, a chi si fosse unito a noi da poco, proprio poco, e sarebbe comunque giustificato. Il nostro giro con i corrispondenti stranieri ci porterà oggi a una tappa inevitabile in Pakistan e voglio ringraziare per questo il corrispondente dal Pakistan e in Italia di diversi organi di stampa, il freelance Ejaz Ahmad, direttore anche di Azad, il giornale dei pakistani in Italia. Buongiorno Ejaz. Buongiorno, buongiorno. Come si dice buongiorno in urdu? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, insomma, abbastanza così globale come globale, definizione. Sì. E ci spiace scomodarti oggi per questioni che riguardano il tuo paese e hanno portato a notizie troppo frammentate sulla stampa italiana e vorremmo con te cercare di capire esattamente cosa sta succedendo. Ci sono queste alluvioni, puoi specificarci in quale zona del Pakistan? E prima volta nella storia pakistana è iniziata l'alluvione dal nord e quindi sta spostando piano piano dal centro verso il sud. E grande problema sono i monsoni. Noi abbiamo le 5 stagioni, non come in Italia che avete 4 stagioni. Quella quinta stagione di monsoni che distrugge ogni anno intero il paese. Ogni anno, quindi in qualche modo una situazione annunciata? Sì. Siamo sempre pronti per questa stagione, purtroppo quest'anno è piovuto molto di più e anche prossimi 2 o 3 giorni le previsioni dicono che pioverà ancora di più. Ora, a questo punto, qual è la situazione? Perché fino a ieri si parlava, secondo le fonti Croce Rossa, di 2,5 milioni di persone colpite da questi monsoni a cui hai fatto riferimento anche tu e 1,100 morti. Ma soprattutto si temeva per quello che sarebbe successo tra i sopravvissuti, visto che non esistono dei veri e propri campi attrezzati per l'emergenza. Tu hai anche, tra l'altro, sei così come molti corrispondenti, una sorta di ponte tra le famiglie di pakistani che vivono in Italia e che cercano disperatamente notizie dei propri cari rimasti in Pakistan e questo paese. Cos'è successo a Roma, nella comunità pakistana, ieri, per esempio? Guardi, la comunità del nord, la comunità Pashtun, sono quasi 5,000 in Italia e molti di loro sono preoccupati perché questo alluvione ha colpito molto la nuova provincia che si chiama Pashtunkhwa, che è ex la provincia del nord, divisa in due province. E loro sono molto preoccupati per le loro case, famiglie, e molti di loro vivono nei villaggi dove non esiste la comunicazione, non esiste il governo centrale, perciò i morti e i danni saranno molto di più di quelli che stanno parlando in questo momento. E mentre monta in tutto il paese la rabbia contro l'incapacità del governo a reagire con prontezza a questa tragedia, è arrivata un'altra notizia di violenze, ancora una volta legate alla situazione politica questa mattina. Sembra che 31 persone siano state uccise a Karachi proprio in seguito a un omicidio. Un omicidio di un politico importante. Chi è? Si chiama target killing, in inglese la parola, e le uccisioni mirate che stanno colpendo questa città. Poi non è una città, è un paese, perché vivono più di 12 milioni di abitanti. Era un leader di partito di immigrati. Chi è? Facci il nome. La persona è, adesso non mi ricordo più il nome, però è il membro dell'assemblea della provincia del Sindh, partito di Muhajir Qaumi Movement. Ed è stato preso di mira? È un partito importante, però al stesso tempo è un partito che e vuole la separazione dal Pakistan, vuole una provincia Karachi per sé. Ed è stato preso di mira questo rappresentante di questo partito, perché? Qual è la rivendicazione per l'indipendenza dal Pakistan di questa provincia? Sono rivendicazioni secessioniste? Penso che loro da molto tempo vogliono la libertà dalla provincia del Sindh, da dove è nato questo partito di Benazir Bhutto. Anche famiglia di Benazir Bhutto vengono da questa provincia. E infatti l'ultima volta in cui in Italia si è parlato in maniera sistematica del Pakistan è stato purtroppo intorno alla fine del 2007, quando, lo ricorderai, appunto fu uccisa il capo del partito dell'opposizione in un attentato. Sto parlando di Benazir Bhutto. E quindi ti ringrazio molto, Ejaz, per questo tuo contributo alla comprensione di un paese importantissimo nella geopolitica internazionale, ma che viene un po' trascurato dagli organi di stampa italiani. Vogliamo ricordare che il sesto paese più popoloso del mondo. Quanti abitanti ha il tuo paese d'origine, il Pakistan? 170 milioni, calcoliamo che solo nel 1947 noi eravamo 50 milioni. E poi adesso previsioni dicono che nel 2050 saremmo 270 milioni. 270 milioni, adesso 170 milioni e quasi diventerà secondo paese islamico dopo Indonesia. Dopo l'Indonesia. Pesca, e tu ti trovi in Italia, fai il corrispondente, fai il giornalista, sono 70.000 circa i pakistani in Italia. E devo chiederti innanzitutto perché ti troviamo da queste parti, perché sei venuto qui, quando sei arrivato? Io sono venuto nell'89 e pakistani quel tempo venivano in Italia solo per fare permesso di soggiorno, poi andavano a lavorare in Inghilterra, in Germania, eccetera. E poi quando le leggi sono diventate molto ristrette nei paesi del nord, hanno cominciato a sedentare anche in Italia. Adesso siamo quasi 100.000 pakistani in Italia. Quasi 100.000, mi scuso, avevo dato una stima al ribasso. No, è perché c'è anche parte dei clandestini e i dati della Caritas sono un po' vecchi. 100.000 dunque. E tu hai figli? Ejaz, hai figli? Sì, io ho due figli. Che cittadinanza hanno i tuoi figli? Questi hanno doppia cittadinanza, sia pakistana sia italiana, perché noi abbiamo la reciprocità e questo c'è vantaggio. E i tuoi figli parlano urdu, hanno mantenuto la prima lingua del padre? Sei riuscito a trasmetterla? Sì, una parte, perché la lingua del padre è un po' difficile, è sempre la lingua della madre che è più facile, perché io sono a casa poco e la mamma è italiana, quindi parlano più italiano che urdu. Te lo chiedo perché mi interesserebbe sapere se nelle scuole che i tuoi figli frequentano, hanno frequentato, sì, c'è stata una valorizzazione di questa loro diversità, cioè gli insegnanti erano contenti di avere degli allievi bilingui che portavano un altro contributo dal punto di vista linguistico, chiedevano loro come si dice in urdu questo o quel vocabolo, oppure non hai avuto questa esperienza? Ancora non ho avuto questa esperienza, anzi nelle scuole italiane, le scuole italiane ancora sono monoculturali, è un problema ancora dell'ora di religione, che loro quando c'è ora di religione rimangono fuori, perché non, l'Italia non ha creato le alternative, come la Spagna, Germania e Inghilterra hanno creato ora delle religioni o le altre alternative. La scuola italiana è buona ma è ancora monoculturale. Beh, non tutte, in molte scuole italiane pubbliche si insegnano appunto le religioni e coloro che comunque non vogliono partecipare hanno delle attività alternative. Sì, le altre attività alternative ancora sono scarse, questo volevo dire. Quando scrivi per i pakistani, per Islamabad, raccontando l'Italia, su quali soggetti ti soffermi? Guarda, loro, il Pakistan non è molto interessato alle notizie italiane. Alle volte io scrivo per su Vaticano, quello che succede in Vaticano e grandi notizie italiane legate all'economia, alla Fiat e qualche nostro ministro, nostri coinvolgimenti con l'Italia, perché noi nel commercio stiamo diventando un partner importante con l'Italia. In quali settori? Prima di tutto le armi, quando riguarda gli strumenti come per gli aerei e poi c'è il commercio anche nel settore tessile e alimentari. Le armi. Noi mandiamo molto, ricordiamo che molto il Pakistan è una delle nazioni che ufficialmente ha il nucleare. Una delle poche nazioni che ufficialmente è in questa condizione. È stato interessante, naturalmente, Ejaz, incontrarti. Voglio ricordare che Ejaz Ahmad è rappresentante di una comunità pakistana in Italia, ma soprattutto è un corrispondente, è un giornalista che vive qui. È il direttore di Azad, il giornale dei pakistani in Italia, e fornisce corrispondenze a Islamabad, a Karachi e in diversi organi di stampa. Grazie e buona giornata. Niente, buongiorno. Ejaz Ahmad, un corrispondente straniero. Domani torneremo a incontrare qualcuno che ci parlerà dell'Italia vista da dentro, con una prospettiva di coloro che sono stati trapiantati qui per ragioni di lavoro e che devono raccontarlo, questo paese, agli altri. Noi invece tra pochissimo torneremo insieme per parlare di Canone Rai. Vi abbiamo chiesto questa mattina: secondo voi, con una programmazione diversa, lo si pagherebbe più volentieri, visto che secondo una ricerca di contribuenti.it in alcune parti d'Italia è l'86% delle famiglie a non versare il canone per la TV pubblica. La media nazionale si attesta intorno al 41%, la tassa più evasa. Continuate a votare al www.radio24.it. 32 minuti dopo le 8, 30%, questo è la percentuale collezionata fino a questo punto dai sì, sto controllando in tempo reale il sondaggio, e 70% no. Ricapitolando, ci stiamo chiedendo se questa tassa decisamente disamata dagli italiani, cioè il canone, sarebbe pagata più volentieri, questo è il termine che abbiamo utilizzato, nel caso la RAI si avviasse verso una riforma, creando magari, chissà, la TV che non c'è. Perché questa definizione l'ho presa a prestito dal titolo di un libro, l'autore è con noi in studio, lo ringrazio, buongiorno, benvenuto Gilberto Squizzato. Buongiorno a voi e grazie dell'ospitalità e dell'invito. Gilberto Squizzato è un giornalista, è un autore, è un regista, ha girato centinaia di inchieste, reportage per i TG Rai, docufilm, real movie, e ha ottenuto il premio internazionale Flaiano per la fiction, tanti riconoscimenti in tutta Europa, insegna al master di giornalismo. Si è speso, master di giornalismo, lo ricordiamo, dell'Università Statale al Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano, ma al di là di questo si è speso nell'immaginare una RAI tutt'altro che utopica, percorreremo con lui le tappe di questo progetto, e che potrebbe decisamente a ricasco provocare un miglioramento della qualità dei programmi. A proposito di qualità dei programmi, c'è un malcontento nemmeno troppo malcelato tra i contribuenti, non lo si vede solo dal mancato pagamento del canone, lo si sente spesso e volentieri anche nella vita quotidiana. Vengono salvati in pochi dalla qualità e da questi giudizi piuttosto tranchant sulla RAI. Uno sicuramente si chiama Riccardo Iacona, giornalista e conduttore, tornerà con la seconda stagione di Presa Diretta presto su Rai 3. Oggi è con noi, lo ringrazio. Ciao Riccardo. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, ciao Gilberto. Come stai? Bene? Bene, bene. Stai già mettendo in cantiere... 5 settembre si torna in onda. Bravo. E tra poco ci darai anche questi dettagli. Editorialista del Sole 24 Ore e autore di alcune definizioni per la RAI che sono state definite quantomeno eccentriche, invece lui le sa giustificare e argomentare benissimo. Si chiama Franco De Benedetti, è stato anche senatore del DS, questa mattina con noi. Buongiorno De Benedetti. Buongiorno. Comincerei subito da Riccardo Iacona, alle prese con il montaggio. Tra poco lo dovremo anche dissequestrare, perché andrà appunto a produrre uno di questi prodotti che l'hanno portato ad avere un indice di gradimento intaccato, nonostante la RAI perda di credibilità. Secondo te, Riccardo Iacona, il servizio pubblico, essere un giornalista del servizio pubblico, è ancora una responsabilità, è qualcosa che soprattutto porta lustro, ha un senso parlare di giornalista di servizio pubblico, o il mandato dell'informazione è uguale ovunque? Ma io è una responsabilità che sento, la sento forte, la sento ancora di più quando mi vedo attorno e vedo che, diciamo, il mondo dell'informazione, il mondo che produce l'immaginario televisivo, è così selvaggio dal punto di vista sia dei rapporti con la politica nel mondo privato, ma anche, diciamo, nelle pressioni che viviamo noi in Rai tutti i giorni. Allora ancora di più sento il bisogno di uno scudo, ecco, chiamiamolo così, di una televisione di tutti. Per me la televisione di tutti naturalmente è una televisione aperta, cioè una televisione dove anche tutti i punti di vista possono essere rappresentati, dove, che non ha paura del conflitto, una televisione coraggiosa, dove gli autori e i giornalisti sono indipendenti, non si lasciano dettare l'agenda dalla politica, ma la decidono nel rapporto libero che hanno istituito con i loro telespettatori. Questa è la televisione, no? alla quale io lavoro. E penso questa che hai descritto è la televisione per la quale tu lavori in questo momento? La televisione che cerco di fare io e che cercano di fare tanti miei colleghi. Cioè, voglio dire, il fatto è vero che la RAI ha perso di smalto, ha perso di credibilità nel rapporto con il pubblico, ma l'ha perso proprio perché non ha rispettato fino in fondo questo mandato pubblico di cui parlavo prima, no? Chiaro che è una battaglia in corso, ma alle condizioni date, no? Con l'attacco terribile che c'è su questo terreno qui, la partita politica si gioca oggi in Italia su questo terreno qui. Immaginare di sbaraccare quel poco di televisione pubblica che è rimasta, lo considero veramente pericoloso. E il canone, secondo te, in questa logica, quanto garantisce questa qualità e questa indipendenza di cui tu parli? Deve continuare a esserci? Deve convivere con la pubblicità? Si deve vivere di logiche esclusivamente commerciali? Stiamo parlando di un mondo che va riformato, bisogna riformare prima di tutto la governance del sistema del servizio pubblico, no? Per sganciarla, per allontanare il più possibile la politica, quella intesa dei partiti, no? E chiaramente io non dico che le condizioni odierne sono le condizioni migliori, non lo posso dire, ma nessuno lo direbbe. No, il punto è che bisogna andare verso delle riforme che non stanno nelle nostre mani, no? Che liberino la RAI. Naturalmente in un processo di questo tipo anche la risorsa pubblica è una risorsa importante, no? Perché garantisce questa libertà. E quindi il canone come garanzia di indipendenza, l'avete sentito. Franco De Benedetti, lei ha scritto a più riprese su Sole 24 Ore e non solo, che invece questo concetto del canone, anzi di TV pubblica, è quasi un'eredità della preistoria. Perché? Io trovo molto giusto quello che ha detto un momento fa Iacona, cioè sul punto centrale, che è il punto della governance. Perché la RAI pubblica, insomma, non pigliamoci in giro, è la RAI dei partiti, perché sono loro i proprietari della RAI. Con questa governance, ma io non credo che tutto quello che si dice, lì è il problema. Ora, o si taglia quel nodo lì, ma quel nodo lì non si riforma. Ma sentite, ma quanti anni è che ne parliamo? Diversi, sì, sembra. Ma no, decine di anni. Allora lasciamo perdere, è evidente. Cioè, secondo lei i partiti rinuncia a un potere che ha, o glielo si leva oppure rimane suo. De Benedetti, secondo lei i partiti non faranno mai un passo indietro, mai, né si potrà arrivare a un voto in problema, questa direzione. Poi l'idea che il pubblico dia la qualità, insomma, mi sembra che sia veramente paradossale. Vorrei sapere in quale altro settore di tutti i prodotti e servizi offerti il pubblico significa qualità. Chi non paga il canone è un evasore fiscale, ci segnava qualcuno in un messaggio SMS. Continuate a partecipare se volete al 349-238-6666. E vorrei arrivare a Gilberto Squizzato, che ha raccolto questi contributi di Riccardo Iacona e De Benedetti. La TV che non c'è, si intitola il suo libro, ma potrebbe esserci, o bisogna rinunciare all'idea di TV pubblica, come qualcuno suggerisce? Non posso nascondere il mio dissenso rispetto all'impostazione di De Benedetti. Si tratta di decidere, in un paese moderno avanzato, se appunto il concetto di TV e di radio pubblica siano superati, se siano delle eredità di epoche geologiche ormai definitivamente concluse. Io penso che non sia da accettare questa impostazione. E credo che da qualche tempo, da una decina di anni circa, noi ci stiamo impantanando in un colossale equivoco quando parliamo di RAI, perché è diventato ormai quasi un dogma indiscutibile il fatto che la RAI debba stare sul mercato. Io penso di no. La RAI non ha il compito di stare sul mercato. Gli ospedali pubblici, la sanità pubblica non hanno il compito di stare sul mercato. La scuola pubblica, la ricerca scientifica non hanno il compito di stare sul mercato. Cioè, il che non vuol dire che debbano essere in passivo, il che non vuol dire, sono dei servizi. Ora, i servizi sono un bene pubblico che nel mio, io penso addirittura come l'acqua, devono essere alcuni servizi pubblici essenziali, patrimonio di tutti i cittadini. Qual è il bene pubblico che viene, deve essere fornito dalla radio, dalla televisione di proprietà pubblica? Deve essere una informazione che dice anche quelle verità che legittimamente l'editore privato può non dare. Non c'è l'obbligo per l'editore, privato di dare anche notizie che collidono con i propri interessi. Ma questo fa parte, come dire, del contratto sociale. Non è uno scandalo. Ma per il servizio pubblico, sì. Franco De Benedetti, ha sentito? Cosa vuole? Pazienza. Andare avanti così. Cioè, secondo lei l'unica strada possibile... Ma sì, viviamo in un'epoca ormai di una esaltazione, di un esasperato iperneoliberismo che ha fatto il suo tempo. Ma non è iperneoliberismo, l'obbligo di dare le informazioni, l'interesse di dare le informazioni, ma lei pensa che le televisioni che ci sono nel mondo hanno l'obbligo di dare, hanno l'interesse di dare le informazioni e hanno l'interesse di dare le informazioni che posso fare, posso una piccola replica. Lasciamo finire. Lei ha fatto l'esempio della scuola e della sanità, begli esempi. L'interesse di dare l'informazione, perché l'informazione fatta come si deve paga anche e perfino in termini di ascolti, nonostante non dovrebbe essere l'obiettivo. Questo è dimostrato da diversi prodotti intorno al mondo. Torneremo tra poco a parlare di servizio pubblico e di modelli, quelli che vorremmo perseguire e quelli che è possibile realizzare. Ma prima vorrei salutare Riccardo Iacona, atteso dal suo team di Presa Diretta per mettere a punto le puntate. Vediamo nella pratica come interpreti questo mandato che senti così seriamente di giornalista del servizio pubblico. Per esempio, su cosa ti sei concentrato quando hai lavorato quest'estate? Perché tu hai lavorato. Ma sì, insomma, cerchiamo di fare le cose che gli altri non fanno, di affrontare i temi densi del paese, di portarli in prima serata, perché poi adesso, diciamo, a prescindere dalla tecnica, dal fatto se ha più senso liberare il sistema televisivo, che non è libero non per colpa nostra, ma per un sistema industriale che sostanzialmente è un monopolio mascherato, no? Per cui non nascono altre iniziative, terzi, quarti poli, la RAI non si libera, il servizio, la natura del servizio pubblico non viene rispettata. La verità è che dietro tutta questa roba qui ci sta una drammatica compressione dell'universo del raccontabile. Oggi se noi guardiamo le televisioni generaliste, tutte, perché in questo si assomigliano tutte, sono delle televisioni povere dal punto di vista proprio del valore aggiunto, di quello che propongono, delle cose che capisci, che comprendi in profondità, che impari, persino delle immagini del mondo. Ci siamo abituati a un'informazione dove gli italiani hanno un processo di analfabetismo di ritorno, non riescono manco più a sapere quanto è grande l'Unione Europea, non vediamo più un'immagine di Belgrado, di Sofia, insomma. Ecco, diciamo, questo è il terreno. Sì, e hai citato paesi vicini, per non parlare resto del mondo. Sì, ma per dirvi quanta povera è diventata la televisione. Adesso abbiamo scoperto che d'estate non c'è l'informazione, c'è la crisi politica più grave, sconquassante del paese, e non c'è un luogo dove tutti gli italiani si possono ancora riconoscere come gli italiani e partecipare a questo dibattito, un luogo collettivo importante, grande. Come è stata la televisione pubblica italiana non tanto tempo fa, no? Quindi tu, diciamo, tornerai tra poco. Il sforzo è questo, è allargare il più possibile l'universo del raccontabile. Torniamo il 5 settembre. Per esempio, tu come l'hai fatto il 5 settembre? Cominciamo con Dranghetisti, che è una puntata. Sono mesi che seguiamo gli sforzi che stanno facendo le forze dell'ordine, chi fa il giornalista lo sa perché c'ha le agenzie, ogni tre giorni ci sono operazioni incredibili, in televisione non, a parte il pezzetto del telegiornale non passa niente, è materiale narrativo sul quale si potrebbe fare una all news solo a raccontare il contrasto dello Stato alla mafia più importante d'Italia. Questo il 5 settembre e nel corso della stagione? E poi parleremo di nucleare, parleremo di discriminazione di donne in Italia, parleremo della crisi economica, una puntata che si chiama Senza Fabbriche, parleremo e finiamo con una puntata che si chiama Fratelli d'Italia, che, diciamo, è il nostro omaggio al 150esimo, dove faremo, insomma, vedere un po' lavoreremo un po' sui valori. Cioè, grazie a Riccardo. Che ci tiene ancora uniti. Un abbraccio forte. Grazie, grazie a Riccardo Iacona, conduttore di Presa Diretta, che un giorno ha detto: io faccio semplicemente ciò che è normale per un giornalista. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. E ritorniamo con Gilberto Squizzato, che ha fatto una proposta, non una provocazione. Spesso si chiamano provocazioni, in realtà sono realizzabili, ci sono riusciti in altri paesi, perché non in Italia. E allora, la RAI non deve sottostare solo a logiche commerciali, hai detto e hai raccontato nella TV che non c'è. In pratica, in sintesi, come vedi questa governance, piace molto questa parola, o il consiglio d'amministrazione sganciato da una logica partitica, come si realizza? Ma penso che noi in Italia ci stiamo trascinando da troppi decenni un'eredità che appartiene a, chiamiamola così, una cultura politica di matrice fascista, e cioè quella di pensare che il sistema dei partiti, allora uno solo, oggi nella pluralità democratica molti partiti, abbia la facoltà di rappresentare l'intera società e di rappresentarla sotto tutti i punti di vista. Questo non è vero. I partiti rappresentano la società, rappresentano la nazione dal punto di vista politico-partitico, ma non possono pretendere di rappresentarla dal punto di vista culturale, religioso, artistico, scientifico. Esiste, cioè, nella una, pratica, facciamo nella una riforma pratica RAI, significa nella pratica, questo. So che è difficile e semplifica. Nella pratica significa questo. Significa chiedere ai partiti di fare non uno, ma di fare 10 passi indietro. Le formule possono essere le più varie possibili. Fondamentalmente io credo che il Parlamento possa nominare 2, 3, 4 rappresentanti in un consiglio di amministrazione, ma le si può governare, chiamare anche in un altro modo, un comitato editoriale, come si vuole. Però questi rappresentanti devono essere una minoranza rispetto a altri rappresentanti di quelli che si chiamano i corpi intermedi, e cioè... chiamiamolo il mondo del lavoro, il mondo della ricerca, il mondo dell'università, gli stessi utenti, il mondo dello spettacolo, il mondo della televisione, il mondo dell'editoria, il mondo dell'imprenditoria. Questi dovrebbero a loro volta costituire la dirigenza, costituire quell'organismo che decide quali sono le linee editoriali fondamentali per cui la RAI percorre delle strade che non devono essere la fotocopia di ciò che viene prodotto dalle televisioni commerciali, che hanno un altro compito. Possono anche fare informazione, ma eminentemente il loro compito è quello di produrre utile, cioè di vendere contatti pubblicitari. Franco De Benedetti, se si rinunciasse al canone, una TV pubblica che viva solo di pubblicità, per esempio, allora, per come propone un ascoltatore, è pensabile? Per quale motivo dovrebbe essere pubblica, scusi? Il problema è che Squizzato non può risolvere, perché è irrisolvibile con quell'approccio mentale, scusi, logico. Primo è, sì, i partiti già nominano attraverso il comitato di vigilanza RAI e attraverso poi le nomine dei consigli di amministrazione, quindi nominano delle persone. Come si fa a farli tornare indietro? Non torneranno mai indietro, ma non posso. È logico che non tornino indietro, dal momento che hanno poi la responsabilità. Allora avere la responsabilità significa occuparsene. Non è cosa di cui si deve occupare il Parlamento, non è cosa di cui si devono occupare i partiti. E poi, supponiamo pure che lo si faccia, chi è che stabilisce quello che va bene pubblicare o quello che non va? Non avendo nessun riscontro dall'altra parte. Perché se c'è nel mercato c'è il riscontro del gradimento, che è espresso dal fatto che uno compra una certa cosa o non la compra. E quindi, Franco De Benedetti, lei mi faccia capire. La soluzione di avere i saggi, i filosofi che sanno per tutti, sanno che cosa è bene che io veda. Ma chi è che sa, che pretende di sapere che cosa è bene che veda io? Io lo determino che cosa voglio vedere. Mi faccia capire, quindi, visto che una RAI virtuosa, diciamo così, non è possibile, l'abolizione. Un momento, io nego che sia virtuosa. Non può esistere. Ne nega la possibilità. Ne nega la possibilità. Io nego che sia virtuosa, nego sì. che sia di, di per sé virtuoso una cosa che qualcuno, non si sa bene chi, stabilisce che è bene che io veda. Guardi, io sono una persona, ho 77 anni, mi ricordo che quando ero ragazzo sentivo il convegno dei 5. A me piaceva molto, ma scusi, nessuno più lo sentirebbe oggi. E allora che cosa mettiamo? Facciamo il convegno dei 5 versione 2010. No, la sua posizione è chiarissima, grazie per averla illustrata, ma diamo la parola anche agli ascoltatori. Pronto? Pronto. Pronto? Chi parla e da dove chiama? Io sono Moreno Muscedere e chiamo dalla provincia di Roma. Sì, Moreno. Dica, allora, lei il canone lo paga? Lo pagherebbe? Io il canone lo pago e sono d'accordo a pagarlo, però sono sicuramente non sono contento del servizio, in quanto l'informazione che dovrebbe essere asettica e non inquinata da politica purtroppo palesemente viene trasmessa, inquinata sia di destra che di sinistra. Lei quando dice inquinata da politica intende da faziosità, naturalmente, cioè dalla politica nell'informazione non si può prescindere. Io intendo che ci sono dei format che si propongono come format di informazione, in realtà sono palesemente, diciamo, o di destra o di sinistra. E quindi se fossero più obiettivi, diciamo così, lei il canone tornerebbe a pagarlo? Assolutamente sì, perché sarebbe una televisione dove io pago un servizio e sicuramente mi aspetterei meno pubblicità, paradossalmente pagando più canone. Però io sono sicuro che quel servizio non è inquinato. Grazie. Moreno, grazie. È chiaro anche in questo caso dove si vorrebbe arrivare. Vediamo un attimo i canoni degli altri. La TV svizzera, che sicuramente di credibilità ne ha, 311 euro all'anno. L'Austria 263 euro. La Norvegia 241 euro annui. La Finlandia 224. Non siamo in grado però di dare un giudizio di valore su questo tipo di televisioni. La Germania 215, la Svezia 131 e l'Italia fanalino di coda dopo Francia e Regno Unito con 107 euro. Ci chiede un ascoltatore: io pago Sky, perché dovrei pagare il canone? Domanda che ti girerò tra poco. Squizzato, vorrei sentire anche da Luca chi abbiamo in onda. Pronto? Pronto? Pronto? Buongiorno, Giacomo. Forza. Sì, pronto? Sì, allora, non esiti. Buongiorno, per quanto riguarda io sarei d'accordo, il canone lo pago, quindi sono d'accordo a pagarlo, però pubblico, servizio pubblico, ma cosa c'è di servizio pubblico? Lei come lo definirebbe servizio pubblico? Due aggettivi, sì, la sentiamo, vada al punto. Giacomo? Io non sento niente. Giacomo, parli. Sì. Ok, allora, un servizio pubblico, cioè questa RAI, ci danno pochissimo, cioè danno delle trasmissioni che di pubblico non hanno niente, sono trasmissioni fatte e rifatte, rifritte e rifratte, insomma, quindi non c'è niente di istruttivo di pubblico. Io e non dunque, vedo niente di pubblico, lei paga, ma non è soddisfatto, non c'è niente di istruttivo. E c'è chi dice che educare è uno dei mandati del servizio pubblico, chi dalla parte opposta sostiene che educare è un compito del singolo individuo e nessuno deve ergersi a educatore quando si fa informazione. Ma al di là delle scuole di pensiero, ci sono altre nazioni in cui si paga il canone, ci sono nazioni in cui esiste il servizio pubblico nei principali paesi europei con delle forme di governance diverse, in cui esistono a volte dei trust, dei consigli di amministrazione che rappresentano la società civile con figure di riconosciuti meriti. Lei o tu, Squizzato, hai tracciato una strada possibile, ma poi c'è la domanda dell'ascoltatore: pago già Sky, ho già un'altra offerta, visto che questo servizio pubblico non mi dà di più, perché dovrei pagare il canone? Cosa rispondi? Dico che quando acquista Sky compie esattamente la stessa operazione di quando va in edicola e compra il Sole 24 Ore o compra il Corriere, cioè stabilisce un contratto. Io acquisto un prodotto e so già, diciamo, c'è un contratto, un rapporto fiduciario nei confronti della persona o dell'ente o della società o della proprietà che mi vende quel bene. Sì, ma se acquista già questi beni, perché dovrebbe pagare l'altro? Chiede. E qui purtroppo devo tornare a De Benedetti. Ma chi ci assicura che il mercato ci dia tutte le notizie. Faccio solo due esempi. Ma come sono state date dalla proprietà di un certo giornale italiano le notizie dei licenziamenti di alcuni operai alla Fiat? Sono state date? Come sono state date? Secondo esempio. Fino a 18 anni fa, la Rai mandava in onda una trasmissione, si chiamava Di Tasca Nostra, compiva il servizio di esaminare con dei test giurati l'esame dei prodotti merceologici che stanno sul nostro mercato. Diceva: questo burro è buono, quest'altro burro non è buono, il rapporto prezzo-qualità in questo caso è giusto, in questo altro caso. Questo programma è stato chiuso per volontà della pubblicità. Io non ho nulla contro la pubblicità, ma non posso pretendere che la pubblicità, per esempio, consenta a un'emittente privata di dare un'analisi merceologica dei beni che stanno sul mercato, che sia... Diciamo così, non si fiderebbe, quantomeno. Gilberto Squizzato, grazie, autore della TV che non c'è. Un libro, è stato detto che se fossimo in un paese normale o almeno semi-normale, i dirigenti della RAI, dopo averlo letto, dovrebbero alzare il telefono e ringraziare l'autore. Oggi è stato con noi Gilberto Squizzato. Ringrazio anche Riccardo Iacona, giornalista, conduttore TV di Presa Diretta, e Franco De Benedetti, editorialista del Sole 24 Ore, è stato anche senatore di S. Voi continuate a votare, paghereste di più il canone se i programmi fossero diversi, se ci fosse una riforma RAI? www.radio24.it. Un saluto da Irene Zerbini.